ambizioni cristiane. Sei contento del tuo progresso spirituale e di quello della chiesa che frequenti? Se la risposta è negativa, ti sei chiesto quali possono essere i motivi? Forse sono tanti, come la mancanza della lettura della parola di Dio o negligenza nella preghiera. Se permetti, però, vorrei aggiungerne uno che forse non è tanto conosciuto, la mancanza d'ambizioni. Ma non è peccato l'ambizione, mi dirai. Sì, è vero. L'ambizione è un peccato quando è desiderio, brama di avere poteri, onori, grandezza. Ma non lo è se si desidera raggiungere delle mete lecite, di migliorare la propria posizione sociale o spirituale. Dal momento che il mondo è pieno di ambizioni sbagliate, si pensa che il cristiano spirituale sia colui che è privo di ambizioni, rinunciatario, rassegnato. Niente di tutto questo. Il cristiano è un uomo che ha ambizioni, mete, ma ambizioni prodotte dallo Spirito Santo. TRE esempi. Leggendo la Bibbia notiamo che i più grandi uomini di Dio erano tali perché avevano delle ambizioni, delle mete ben precise. Prendiamo tre esempi. Mose, nel capitolo 33 dell'Esodo, chiede all'Eterno di fargli sapere chi manderà con lui. Poi desidera che gli faccia conoscere le sue vie. Infine, che gli faccia vedere la sua gloria. Mosè non si accontentava di una vaga conoscenza di Dio, egli desiderava entrare in intima comunione con Lui. Se è bello camminare nelle vie di Dio, quanto più lo sarà stare alla sua presenza. E questo vuol dire dedicargli del tempo. Giustamente A. W. Tozer, nel suo libro La Divina Conquista, considera Dio non si è inchinato davanti alla nostra fretta febbrile e non ha abbracciato i metodi della nostra età meccanicizzata. E, bene che accettiamo questa dura verità adesso, l'uomo che vuole conoscere Dio deve consacrargli del tempo. Non deve considerare tempo perduto quello che è impiegato per coltivare questa conoscenza. Deve darsi continuamente alla meditazione e alla preghiera. Se si vuole arrivare ad una vera e intima comunione con Dio, occorre che questo desiderio sia talmente forte da vincere, almeno per un periodo di tempo, ogni altro desiderio. Non vi può essere più grande tragedia, continua Tozer, nella vita di un uomo che il vivere in una chiesa di infanzia, alla vecchiaia, senza conoscere nulla di più reale di un Dio sintetico, fatto di teologia e di logica, senza occhi per vedere, senza orecchi per udire e senza un cuore per amare. Sì. La tragedia di tanti credenti è ridurre la vita cristiana in una serie di regole da ubbidire e non una relazione con un persona. Per evitare un tale errore occorre presentarsi davanti a Dio non solo per chiedere, ma dedicare anche del tempo per ringraziarlo e lodarlo, altrimenti facciamo di lui uno strumento da usare, anziché una persona da amare. La preghiera deve essere quindi la pietra angolare per ogni altra ambizione. Salomone, nel capitolo 1 del secondo libro delle Cronache, troviamo la più grande offerta che Dio possa fare ad un uomo. Infatti leggiamo: in quella notte Dio apparve a Salomone e gli disse: chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. E, una domanda molto imbarazzante la cui risposta avrebbe rivelato l'ambizione dell'interrogato. Senza esitare, Salomone chiese sapienza e intelligenza per condurre il popolo di Israele. E tu cosa avresti chiesto? Qual è la tua più profonda aspirazione? La Chiesa ha bisogno di uomini capaci, intelligenti nelle cose di Dio. Se i credenti evangelici sono conosciuti per il loro attaccamento alla parola di Dio, dobbiamo anche dire che molti, dopo 10, 20, 30 anni di conversione, faticano ad individuare versetti biblici o davanti ad un semplice problema scritturale. Danno delle spiegazioni aggrappandosi ai vetri. E non si dica, per scusarsi, che è questione di dono. Pur riconoscendo che alcuni hanno il dono del senso alle cose di Dio, rimane vera altresì l'affermazione di Giacomo: se alcuno manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà donata. Ma chieda con fede senza stare punto in dubbio. Quindi, Cecile, è una cosa che Dio ci garantisce, non è la salute e il benessere. 1. ma la sapienza, e chi non ha mancato di fede al momento opportuno, sa per esperienza che Dio è fedele. Paolo, scrivendo ai Romani, l'Apostolo dirà nel capitolo 15: «Io ho dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù nelle cose che riguardano Dio. Infatti non ardirei dir cosa che Cristo non abbia operata per mezzo mio, per condurre all'ubbidienza i gentili con la parola e con l'opera, con potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito di Dio. Così, da Gerusalemme e nei dintorni fino all'Illiria, ho compiuto il servizio dell'Evangelo di Cristo, avendo l'ambizione di evangelizzare là dove non era ancora stato nominato Cristo, per non edificare sul fondamento altrui». Che divina ambizione! Evangelizzare dove ancora non era stato predicato Cristo. Direi, senza paura di essere smentito, che questa sua ambizione è stata l'energia che ha fatto di lui uno dei più grandi pionieri di tutti i tempi. Scrive Dale Rotton nel suo libricino Strategia Cristiana: «Il metodo di Dio per stabilire i suoi oratori e servitori di tutto il mondo è stato sempre quello poggiato sui mezzi di riproduzione spirituale. Molte volte diveniamo attivi e ci sentiamo occupati nel suo servizio, ma non produciamo quei frutti che egli desidera da noi. Abbiamo bisogno di obiettivi ben definiti, altrimenti corriamo il rischio di lottare come chi batte l'aria». Manca a noi oggi la visione di Paolo in Atti 20 e 20. Egli raggiunse le masse pubblicamente e curò e istruì fedeli e discepoli fedelmente di casa in casa. Qual è la tua visione? Sei tu un fantoccio nelle mani di Satana correndo molto nell'attività cristiana ma solo in circoli chiusi? O invece è il tuo lavoro duraturo e fruttuoso? Sagge domande che stimolano l'ambizione di essere dei missionari che non cadono in un attivismo sterile, che hanno delle mete precise da raggiungere a tutti i costi. TRE, ambizioni da ricercare. Un uomo che ha una meta, una visione, è talmente teso verso l'obiettivo da non essere distratto da ciò che lo circonda e non si perde in lunghe discussioni inutili. Scriveva Tertulliano, vissuto nel II secolo. Ma noi, che in verità rimaniamo assolutamente insensibili di fronte a qualsiasi desiderio di gloria e di onori, non abbiamo alcun interesse a formare un'associazione sediziosa e non vi è cosa a noi più estranea della politica. Noi non riconosciamo che una sola patria di tutti, il mondo. E così pure non ci interessiamo dei vostri spettacoli, in quanto ci sentiamo estranei alle loro origini che sappiamo essere fondate sulla superstizione e ai soggetti stessi che vi si svolgono. Apologia del cristianesimo, edito da Rizzoli. Queste erano le ambizioni che i primi cristiani avevano. Non amavano la gloria, gli onori, la politica e le cose del mondo. Erano nel mondo, ma non erano del mondo. Vivevano nel mondo, ma non erano condizionati dai piaceri illeciti da cui erano circondati. Avevano dei tesori così reali in cielo da non essere distratti dai tesori terrestri. Vediamo ora tre ambizioni che dovrebbero dimorare nel cuore dei figli di Dio. 1. Quando Paolo, nella sua prima lettera a Timoteo, lo istruisce sul comportamento da tenere nella casa di Dio, dice: «Se qualcuno aspira all'ufficio di vescovo, desidera una cosa buona». Paolo non ritiene peccato il desiderio di essere un conduttore di chiesa. Anzi, lo considera una cosa buona, o, come rendono altre versioni, un buon lavoro, un incarico buono, un nobile lavoro. Però, questo è il punto, in seguito spiega che cosa comporta essere un conduttore di chiesa, cioè essere irreprensibile, sobrio, assennato, ospitale, atto a insegnare, non dedito al vino, non violento, non amante del denaro, eccetera. Eliminando in questo modo la possibilità che si tratti di un'ambizione carnale. Al convegno di fratelli rappresentanti le assemblee italiane tenutosi a Poggio Umbertini dal 19 al 21 maggio del 1977, il fratello Abele Biginelli, tenendo uno studio sugli anziani, ha detto con franchezza: «Purtroppo, anziani preparati, capaci e costituiti dallo Spirito Santo sono rari. E, una verità che ci umilia e che ci rattrista, ma è la realtà. Vedi il cristiano di agosto diviso settembre, 1977 pag. 198. Le chiese hanno bisogno di uomini che abbiano l'ambizione di essere dei veri anziani. Non di anziani che si impongono o che compiono il loro dovere col desiderio di sgravarsi di questa. Due responsabilità. Anziani come Pietro che compiono il loro dovere volontariamente di buon animo, che servono e che sono di esempio. 2. Un'altra ambizione poco ricercata è il dono di predicare. L'Apostolo Paolo, esortando i Corinzi ad ambire i doni spirituali, gli esorta a bramare principalmente il dono della predicazione. Desiderate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali, ma soprattutto che possiate profetizzare, perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, poiché nessuno lo comprende. Ma egli in spirito proferisce misteri. Chi profetizza invece parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. L'Apostolo mette in evidenza che tutti i doni sono importanti, ma quello della predicazione ha il vantaggio di edificare, cioè fare del bene alla Chiesa. Eppure, il dono della predicazione è ricercato da pochi. Un motivo per cui sono pochi coloro che si consacrano ad un tale mistero è che esso implica una vita dedicata allo studio e alla ricerca, e questo comporta fatica, impegno, costanza. Chi esercita il ministero della predicazione della parola di Dio deve vivere ai piedi del Signore per raccogliere le sue parole, perché senza una mente pura ed una condotta santa, un uomo non può comprendere il puro e santo messaggio di Dio. E, come se ciò non bastasse, il diavolo tenta in mille modi chi ha questa aspirazione a dedicarsi ad altro. Ecco che, allora, chi compie questo servizio solo per hobby, a perdita di tempo o per un'ambizione umana, getta la spugna al sorgere delle difficoltà. 3. Un'ultima ambizione che vorrei considerare è quella del servizio. Quando Gesù disse: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti i sovrani delle nazioni le signoreggiano, e i loro grandi esercitano dominio su di esse, ma tra voi non sarà così, anzi chiunque vorrà diventare grande tra voi sarà vostro servo, chiunque fra voi vorrà essere il primo sarà schiavo di tutti». Ha voluto affermare che non è peccato il desiderare di essere grande, piuttosto ha specificato le caratteristiche di questa grandezza: mettersi al servizio dei fratelli, essere schiavo di tutti. Uno spirito di servizio dovrebbe essere la caratteristica di ogni credente, perché, non è superfluo ricordarlo, ogni figlio di Dio è posto in una comunità non per essere servito ma per servire. Ma dal momento che una inclinazione al servizio è contro la nostra natura egoistica, se si ha la meta della vera grandezza, sarà più facile vincere i nostri istinti sbagliati. Solo allora si realizzerà che è donando che si riceve, che è servendo che si è serviti, che è amando che si è amati. Concludendo queste considerazioni, mi rendo del pericolo di suscitare o approvare delle ambizioni sbagliate, per cui due opportune domande possono evitare questi errori. Ciò cui tendo: predicare, testimoniare, governare, eccetera. È per la gloria di Dio? Sta scritto: sia dunque che mangiate, che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. 1 Corinzi 10 e 31. Ci renderemo conto del nostro movente sbagliato quando faremo di tutto per essere considerati, stimati e approvati. Quando gli occhi sono fissi su Gesù, non si può e non si ha tempo di guardare gli altri. Ciò a cui tendo lascia nel mio cuore una pace divina. B. Il salmista disse: «O Eterno, il mio cuore non è orgoglioso, e i miei occhi non sono alteri, e non mi occupo di cose troppo grandi e troppo alte per me. Ho veramente calmato e acquetato la mia anima. Come un bambino svezzato sul seno di sua madre, la mia anima dentro di me è come un bambino svezzato. Egli non è stato quieto finché non ha ridimensionato la sua ambizione. Cose grandi, sì, ma non troppo». La pace divina è un mezzo per comprendere che ciò a cui si tende rientra nelle proprie capacità e nella volontà di Dio. che tu ed io possiamo fare coro con l'Apostolo Paolo nel dire: il mio maggior desiderio e la mia più grande speranza sono che non abbia mai ad essere svergognato in cosa alcuna. Filippesi 1:20-3 febbraio 1976. Ellero 4.